Quanto all'uso dei capelli altrui da sovrapporre ai propri, esso deve essere assolutamente rigettato, poiché è un grave sacrilegio aggiungere sulla propria testa chiome estranee, rivestendo così il capo con trecce di morti. A chi infatti imporrà le mani il prete per la benedizione? Chi benedirà? Certamente non la donna che si è così addobbata, bensì capelli altrui e tramite essi un'altra testa. Ma se capo della donna è l'uomo e capo dell'uomo è Cristo, come non sarebbe un'impietà per le donne incorrere in questo duplice peccato? Da una parte, infatti, ingannano i loro mariti con questa sostituzione della capigliatura, dall'altra fanno oltraggio al Signore per quanto è loro possibile, adornandosi come le prostitute a frode della verità e insultando la loro stessa testa che è realmente bella. Non bisogna neanche tingersi i capelli né cambiarne il colore quando incanutiscono. Non è permesso neppure avere vestiti variegati e soprattutto non bisogna nascondere i segni dell'età veneranda e ispirante fiducia, ma anzi bisogna mostrare alla luce del giorno questo privilegio donato da Dio per indurre i giovani al rispetto. Talvolta, infatti, il sopraggiungere di un uomo canuto è come il sopraggiungere di un pedagogo per la gente spudorata, in quanto con la sua autorità induce alla modestia e con lo splendore del suo aspetto fa intimidire la spavalderia delle loro concupiscenze. Solo un corpo sano e vigoroso è veramente bello. Le donne non si devono imbellettare il viso con le ciurmerie della perversa scienza dei cosmetici. Mostriamo ad esse dunque quale sia una casta cosmesi. Innanzitutto la suprema bellezza è quella dell'anima, come ho più volte ricordato, quando cioè l'anima è ornata dallo Spirito Santo ed esso insuffla in lei i luminosi raggi della giustizia, della prudenza, della fortezza, della temperanza, della benevolenza e della pudicizia, di cui nessun colore è stato mai visto più splendido. In secondo luogo si deve curare la bellezza del corpo, cioè l'armonia delle forme e delle membra e il bel colorito. E qui è idonea una cosmesi salutare con la quale si passa da un idolo artefatto alla verità, secondo la sembianza conferita da Dio. In verità, un giusto dosaggio delle bevande e una equilibrata distribuzione degli alimenti è in grado di conferire una bellezza secondo natura. Da ciò il corpo non solo trae salute, ma rende anche splendente la sua bellezza. Infatti, dall'elemento igneo deriva la lucentezza e la brillantezza, dall'umido lo splendore e la grazia, dal secco il vigore e la compattezza, dall'elemento aereo, infine, il respiro regolare e l'equilibrio. Questi sono gli ornamenti dell'armoniosa e bella statua fatta a immagine del Logos. La bellezza, infatti, è come un nobile fiore che sboccia dalla salute. Quest'ultima agisce all'interno del corpo, mentre la bellezza fiorisce all'esterno e conferisce un buon colorito. Un contegno il più possibile bello e sano, esercitando il corpo con la fatica, produce una bellezza genuina e stabile, giacché il calore trae a sé sia l'umidità nel suo insieme, sia il soffio freddo. Ora il calore può trarre a sé quando è provocato dal movimento. Quando poi ha tratto a sé l'umidità e il soffio freddo, trasforma in vapore, attraverso la carne stessa, il cibo superfluo che si è riscaldato e fa ciò da una parte con una certa quantità di umidità e dall'altra con un eccesso di calore. È per questo che il cibo, preso per primo, viene espulso. Invero, un corpo che non si muove non assorbe il cibo ingerito, ma lo manda fuori, come avviene per il pane che, se il forno è freddo, ne esce fuori o tutto intero oppure lasciando attaccata al forno la sua parte inferiore. È naturale, quindi, che coloro che eccedono nel mangiare abbiano, al momento di evacuare, urine e feci abbondanti, come pure le altre secrezioni e il sudore, poiché il cibo non viene assimilato dal corpo, ma si riserva nei rifiuti in quanto superfluo. Da ciò derivano anche gli stimoli della lussuria, quando cioè la sovrabbondanza investe gli organi genitali. Pertanto bisogna dominare con movimenti appropriati questa sovrabbondanza, riversandola nella digestione, grazie alla quale sboccia la bellezza di un roseo colorito. Modello della casalinga pudica e operosa. È assurdo che chi è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, disprezzando il suo archetipo, adotti un ornamento estraneo, preferendo la perversa arte umana alla creazione divina. Il pedagogo dunque prescrive che le donne si presentino con abiti decorosi e si adornino di pudore e di modestia, stando sottomesse ai loro mariti, affinché se alcuni di essi non avessero fede nel Logos, per mezzo della buona condotta delle loro mogli siano guadagnati a Dio senza bisogno di parole, vedendo il vostro casto comportamento ispirato al Logos. Il vostro ornamento dunque non sia esteriore, fatto di pettinature, di oro e di scialli, ma consista invece nell'uomo interiore che è nel segreto del cuore, nell'incorruttibilità di uno spirito mansueto e pacifico. Questo è prezioso agli occhi di Dio. È soprattutto il fare le cose da sé che conferisce alle donne una bellezza autentica. Fa fare esercizio ai loro corpi e le adorna con le loro stesse mani, non imponendo ad esse un ornamento frutto del lavoro altrui, privo di bellezza, indegno di una persona libera, adatto alle prostitute, ma al contrario un ornamento che ciascuna donna saggia può avere da sé, producendolo con la sua propria fatica e tessendolo con le sue mani, specialmente se ne ha reale necessità. A colei che segue una vita secondo Dio non si addice di mostrarsi addobbata con cose comprate al mercato, ma con cose fatte in casa. Il lavoro più bello, invero, è quello di una donna casalinga, che riveste sia se stessa che il marito di ornamenti fatti da lei. Di essi si compiaceranno tutti, i bambini per la loro madre, il marito per sua moglie, lei stessa per loro e tutti per Dio. In poche parole, è un tesoro di virtù una donna forte, la quale non mangia cibo che è frutto di ozio. I precetti dell'elemosina sono sulla sua lingua. Essa apre la sua bocca con sapienza e con giustizia, e i suoi figli la benedicono quando si alzano. Come dice il Santo Logos per bocca di Salomone, suo marito la elogia. Una donna pia e benedetta, essa lodi il timor di Dio. E ancora, una donna forte è la corona del suo uomo. Contro le donne lascive e sgraziate. Bisogna rendere il più onesto possibile sia l'aspetto esterno che il modo di guardare, di camminare e di parlare. Le donne non devono comportarsi come quelle che imitano l'affettazione dei teatranti e prendono a modello i movimenti lascivi delle danzatrici, e così si atteggiano, in compagnia degli altri, come se stessero sul palco, con i medesimi movimenti lubrici, il passo molle, la voce affettata, lo sguardo languido, esercitandosi ad essere un'esca della voluttà. Miele stilla dalle labbra della donna fornicatrice, che parla per deliziare, e unge la tua gola di unguento, ma alla fine troverai che ciò è più amaro della bile e più letale di una spada a doppio taglio, poiché i piedi della stoltezza spingono chi la possiede, insieme alla morte, giù negli inferi. Il nobile Sansone fu sconfitto dalla prostituta e la sua seconda moglie tagliò la chioma dell'uomo. Ma non fu così per un'altra donna, che non riuscì a sedurre Giuseppe. La prostituta egiziana fu vinta da lui. In verità, la castità con le sue catene si presenta migliore di una libertà senza freni. Ottimo è anche quel che è stato detto. Io proprio non so bisbigliare con fare straziante e camminare tenendo il collo ritorto, come vedo fare qui alcuni debosciati numerosi in città, tutti depilati. Sono dunque da evitare assolutamente i movimenti effeminati, le maniere affettate e lascive. Quella mollezza di movimenti nel camminare e quell'incedere languido, come dice Anacreonte, sono senza meno modi da prostitute, a mio parere. Dice la commedia, è tempo di abbandonare le orme delle prostitute e le loro voluttà. Le orme delle prostitute non si reggono sulla verità, non percorrono i sentieri della vita. Pericolosi sono i suoi passi e non facilmente riconoscibili. Bisogna soprattutto tenere a bada gli occhi, poiché è preferibile scivolare con i piedi che con gli occhi. Il Signore guarisce questo male senza mezzi termini, dicendo: «Se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo». Così sradica la brama sin dalle fondamenta. In effetti, gli sguardi lascivi e gli ammiccamenti, ossia il fare cenni con le palpebre, non sono altro che un adulterio commesso con gli occhi, dal momento che, per mezzo di essi, la concupiscenza lancia i suoi strali. Gli occhi, infatti, si corrompono prima di tutto il resto del corpo. L'occhio, che osserva cose belle, rallegra il cuore, ossia lo rallegra avendo appreso ad osservare bene, ma chi strizza l'occhio con inganno reca dolore agli uomini. Tale viene anche presentato il lussurioso Sardanapallo, re degli Assiri, disteso su di un letto con le gambe aperte, intento ad accarezzare la porpora e con il bianco degli occhi ben visibile a causa del suo sguardo lascivo rivolto in aria. Le donne che si comportano così si prostituiscono con i loro stessi sguardi. Lucerna del corpo è l'occhio, dice la scrittura. Per mezzo di esso ciò che vi è dentro viene manifestato con lo sguardo esteriore. Perciò è fornicazione per una donna sollevare gli occhi. Mortificate le membra terrene. La fornicazione, l'impurità, la passione, la cattiva concupiscenza e la cupidigia, che è idolatria, tutte cose che attirano l'ira di Dio. Così grida l'Apostolo e noi intanto riattizziamo senza vergogna le nostre passioni. Tra le donne alcune vanno in giro e masticando la gomma esibiscono ai passanti uno sgraziato ghigno. Altre si danno languide arie stuzzicandosi la testa con gli spilli che portano tra i capelli come se non avessero le dita. E gli spilli vogliono assolutamente che siano di tartaruga, di avorio o di altro animale morto. Altre ancora, quasi che avessero l'acne, si insudiciano il volto imbellettandosi con unguenti variopinti per apparire belle a chi le guarda. Il pedagogo, per bocca di Salomone, chiama una tale donna insensata e sfrontata, ignara di che cosa sia la verecondia. Si siede su di una poltrona alla porta della sua casa e chiama a sé apertamente i passanti che camminano dritti per la loro strada. Con il suo aspetto esteriore e con tutto il suo modo di vivere è come se dicesse chiaramente: «Chi tra voi è il più insensato? Ebbene, costui devii verso di me». E a coloro che sono privi di intelligenza si rivolge esortandoli: «Assaporate la dolcezza del pane mangiato di nascosto e il piacere delle acque furtive». Designa con queste parole l'Afrodite furtiva. Traendo vantaggio da queste scritture, Pindaro di Beozia dice che è dolce cosa darsi pensiero di Cipride furtivamente. Ma il miserabile non sa che i mortali presso di essa troveranno la rovina e che egli la incontrerà nei penetrali degli inferi. «Tu invece distogli da lì i tuoi passi», dice il pedagogo. «Non indugiare in quel luogo e non posare il tuo sguardo su di essa. In tal modo potrai attraversare le acque straniere e passare la Cheronte». Per questo il Signore dice per bocca di Isaia: «Poiché le figlie di Sion camminano a testa alta e ammiccano con gli occhi e trascinano i loro abiti, mentre incedono e muovono i piedi in maniera teatrale, Dio umilierà le figlie di Sion e paleserà le loro forme deformi». Io ritengo che neppure le serve, che stanno alla sinistra delle signore o le seguono da dietro, debbano dire o fare cose oscene, ma debbono essere piuttosto corrette dalle loro padrone. Con parole di forte biasimo dice il comico Filemone: «Uscendo fuori vedo, dietro a una donna libera, una bella serva sola che la segue, e a partire dal monumento di Platea un uomo che la segue e le ammicca». Invero la licenziosità della serva si ripercuote sulla padrona, dando via libera a chi compie falli minori a compierne di maggiori, dal momento che se la padrona è indulgente verso le cose oscene, mostra con ciò di non disapprovarle. Infatti il non indignarsi con chi è debosciato è il chiaro segno di una mente orientata verso simili vizi, come dicono gli amanti dei proverbi: «Quale la padrona, tale la cagnetta». Quadro dell'uomo dignitoso e benigno con gli schiavi. Bisogna assolutamente evitare di camminare freneticamente, scegliendo invece un contegno nobile e pacato. Ma neppure ci si deve muovere pigramente, né agitarsi quando si cammina per strada, voltandosi a guardare quelli che incontriamo per vedere se ci guardino, come se dovessimo sfilare sul palcoscenico e fossimo segnati a dito da tutti. Non bisogna neppure farsi spingere dai servi per affrontare le salite come vediamo che fanno alcuni uomini effeminati, in apparenza robusti ma in realtà illanguiditi da un animo senza vigore. Un uomo nobile, invece, non deve avere sul volto alcun segno chiaro di mollezza né sul resto del corpo. Né nei movimenti, dunque, né negli atteggiamenti si trovi mai la laidezza che deriva dalla mancanza di virilità. Inoltre, chi è sano non deve trattare i suoi servi come bestie da soma. Infatti, come ad essi viene raccomandato di stare sottomessi con ogni timore ai propri padroni, non solo a quelli buoni e indulgenti, ma anche a quelli difficili, secondo le parole di Pietro, così ai padroni si addice l'imparzialità, la magnanimità e la benevolenza. Infine, dice, siate tutti concordi, compassionevoli, fraterni, misericordiosi, umili, e quel che segue, affinché otteniate la benedizione. Un quadro bello e delizioso dell'uomo giovane sembra aver tracciato Zenone di Cizio, che così lo raffigura. Il suo volto sia pulito, le sopracciglia distese, lo sguardo né altezzoso né languido, il collo diritto, le membra del corpo non siano flaccide ma sostenute e simili a corde tese, che egli abbia pensieri retti, acutezza nel parlare, buona memoria delle cose dette correttamente. Il suo contegno esteriore e i suoi movimenti non lascino alcuna speranza ai debosciati. Pudore e virilità irraggino dal suo volto. Lontana da lui invece la scioperataggine che si trova nelle profumerie, nelle oreficerie, nei mercati di stoffe e nelle altre botteghe del genere, dove molti uomini, addobbati come prostitute, passano la giornata allo stesso modo in cui quelle stanno sedute nei luoghi malfamati.